siamo con Mauro Copeta, il direttore artistico dell'Altra Sponda, il festival estivo del Cassero. Qual è il programma del festival e qual è, diciamo, lo slogan che avete scelto quest'anno? Allora, il festival si spalma, diciamo, su due periodi, in particolar modo tutto il mese di giugno, che è il Pride Month, dove avremo un sacco di spettacoli teatrali con nomi come Lorenzo Balducci, con cui inauguriamo questo giovedì. Avremo Daniele Gattano, avremo Collettiva Duni, Miss Alternative, che è lo storico spettacolo con cui, la storica sfilata con cui raccogliamo fondi per progetti di Cassero Salute. Avremo il karaoke, questo è importantissimo da dire, tutti martedì vi aspettiamo. A settembre invece torna lo Spiral Festival, che è il festival che si occupa di identità queer e musica elettronica, con ospiti prestigiosi come Christine dall'America. Avremo un collettivo queer ucraino, un collettivo transfemminista da Londra e Lili Meraviglia. Tra l'altro, tra fine giugno e inizio luglio ci sono sia il compleanno del Cassero che il Pride, quindi quali sono gli eventi per festeggiare? Festeggeremo il compleanno del Cassero chiaramente il 28 giugno con Brindisi, la torta. Avremo una presentazione della ristampa del testo di Beppe Ramina, A più diritti Sodoma, di Marx, e poi chiaramente il 1° di luglio il Pride cittadino e il nostro party che si chiama Omofollia. Aspettarsi un po' di follia queer, quello che noi abbiamo intenzione di offrire. Per tenersi aggiornati e aggiornate su tutti gli eventi, ci sono social? Il modo più semplice è seguire la nostra pagina su Instagram, Cassero LGBTI Center, dove trovate tutte le informazioni anche per acquistare i biglietti per i vari eventi teatrali, eccetera.